Va ora in onda Rock Revolution. You say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. You tell me that it's evolution. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. You ask me for a contribution. Well, you know we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be in diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera, buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento su CRM Happy Radio con l'evento rock della settimana, Rock Revolution. Anche quest'oggi siamo pronti a iniziare questa nuova puntata. Do subito il benvenuto al mio carissimo collega Simone, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, qua, anche stasera insomma siamo pronti con un bel po' di notizie interessanti come sempre dal mondo della musica rock and roll, poi il consueto appuntamento con l'intervista, lo spazio dedicato agli artisti emergenti. Questa sera un artista davvero molto forte, William Wilson, che avremo qui in studio con noi, che suonerà alcuni pezzi in Unplugged, e poi intervista telefonica, ci metteremo in collegamento con Rovereto per conoscere i Sabung, che è un'altra band che vi consigliamo assolutamente di non perdere questa sera. Chiaramente tanta bella musica. Saluto la nostra regia Gianni, buonasera, anche la nostra redazione Ida, messa lì pronta per i vostri SMS e i vostri messaggi su Facebook. Sì, allora ovviamente contattateci con gli SMS appunto al 335-5637-251. Ancora parlavamo di Facebook, cercate Rock Revolution oppure CRM Happy Radio. Ancora Messenger, aggiungete, qualora non abbiate già, l'indirizzo diretta @rockrevolution.it. Benissimo, queste sono tutte le coordinate per mettervi in collegamento con noi. È appena iniziata una nuova serata all'insegna della musica rock and roll. Iniziamo con un bel classico. Questo proprio un pezzone d'apertura si chiama. Judge for Judge. Inizia Rock Revolution. Buon ascolto, rock and roll. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad, bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. We'll be right back.

quicker. Not quick enough, can I have it quicker? Already figured you're getting thicker. Let's have a game on a teddy picker. Not quick enough, can I have it quicker? Already figured you're getting thicker. Antic Monkeys, teddy picker. Rock Revolution in diretta anche questo venerdì sera su CRMP Radio, anche su internet ci potete sia ascoltare sia seguire in video. Anche quest'oggi abbiamo le webcam che vanno aumentando di settimana in settimana, arriveremo a un certo punto, saremo completamente circondati da telecamere, tipo Grande Fratello, tipo il confessionale del Grande Fratello. Sì. Esattamente, quindi adesso ci poniamo anche il problema, oltre a stare attenti a quello che diciamo, anche a cosa fare poi dentro lo studio, perché sai, uno poi magari, che ne so, no, boh. Ci dobbiamo anche vestire bene, sistemati, certo, insomma, dobbiamo essere un po' più attenti. Questa esperienza tele radiovisiva, oserei a dire. A tutto campo. Infatti. Vabbè, insomma, ci fa piacere che anche questa sera ci seguite in video, tutto questo per dire questo poi alla fine, e quindi salutare tutti quanti gli amici che ci stanno seguendo. Abbiamo anche poi alcune curiosità sulle location dalla quale ci seguono, che di cui parleremo più avanti, perché la scorsa settimana ci seguivano dalla Germania e da, ti ricordi, un'altra nazione? Alcuni paesi italiani che abbiamo scoperto, dei quali abbiamo scoperto l'esistenza, che disconoscevamo fino a qualche momento. Infatti, e poi anche nazioni oltreoceano, diciamo così, che ci seguono, e questo probabilmente, ci sono tante comunità italiane in giro per il mondo, e quindi vuoi non vuoi, insomma, torna il nome poi di Rock Revolution, e c'è Folù che probabilmente è la città dalla quale trasmettiamo, e quindi ecco di cui il gioco è fatto. Va bene, allora, quindi tante belle notizie questa sera, Simone. Ad esempio, iniziamo con questa novità riguardante i Metallica. Sì, è un ipotetico progetto segreto, appunto, dei Metallica. Metallica che hanno appena concluso un tour estenuante a supporto del loro ultimo disco Death Magnetic del 2008, ma in realtà già da maggio sarebbero in studio per iniziare un nuovo fantomatico progetto. Questo dichiara proprio il chitarrista Kirk Hammett, dicendo che appunto vogliono registrarlo in 2 settimane. Sono molto ottimisti. Pensavo di farlo a marzo, ma l'abbiamo posticipato a maggio. Ora, non voglio parlarne troppo, ma non è esattamente un disco dei Metallica al 100%. Uh-huh. È un progetto di disco, mettiamola in questo modo, afferma ancora il chitarrista, senza entrare troppo nei particolari, però rimane da capire se riusciremo a portarlo a termine in 15 giorni. Insomma, mi sa una bella impresa, però chissà che non riescano... appunto in questa impresa. Infatti, beh, ce l'auguriamo, insomma, i Metallica sono fra quelle band preferite, insomma, quelle che ci stanno simpatiche, ci auguriamo anche per voi. E quindi anche stasera ci saranno i Metallica, che ascolteremo con una sequenza di 2 brani molto tosti. E questo è il primo brano, un po' tostino di stasera, devo dire. Loro sono i Blackberry, si intitola Crazy Bitch. And now you got to freak me out. Scream so loud, getting fucking laid. You want me to stay, but I got to make my way. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Take it all, the paper is your game. You jump in bed with fame. Another one not paid in full. You're so fine, it won't be a loss. Cashing in the rocks, just to get you face to face. You're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Crazy bitch, crazy bitch. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Scratches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy bitch, but you fuck so good I'm on top of it. of it when I dream. I'm doing you all night. Scratches all down my back. Come on, baby girl, you want it all. To be a star, you have to go down. Take it off, no need to talk. You're crazy, but I like the way you fuck me. Hey, you're crazy, bitch, but you fuck so good. I'm on top of it when I dream. I'm viewing you all night. Beh, Crazy Bitch che poi significa praticamente, beh, diciamo una, come diciamo, una prostituta felice, chiamiamolo così. 21.38, se ci seguite in replica domenica dalle 21 a mezzanotte, non sballate quell'orario, ma noi siamo in diretta questo venerdì sera per questo bel CRM Happy Weekend. Facciamo subito una pausa e torniamo con voi con un grandissimo classico della musica rock and roll. Uno su CRM Happy Radio Rock Revolution, l'appuntamento rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock Revolution è anche su internet all'indirizzo www.rockrevolution.it. We'll be right back. bello sto pezzo, eh. Allora ragazzi, è arrivato il momento dell'intervista di questa settimana, l'intervista telefonica. Ne avremo due, come sapete, una è telefonica con una band da Rovereto, i Sabung, e poi un'altra in studio con un altro artista molto forte che vi presentiamo stasera, William Wilson. E quindi iniziamo subito con la prima intervista. Allora, la formazione di questa band la ricordo io: Dario Cappelletti, voce e basso elettrico; Federico Dionisi, chitarra elettrica e cori; Lorenzo Frisinghelli, batteria acustica. Loro sono i Sabung. E vediamo con chi siamo al telefono. Pronto? Ciao. Ciao. Buonasera, parlo con... Ciao. Dario, siamo tutti qua con... Oh Dario, che bello sentirvi, complimentoni. Ve li faccio subito all'apertura dell'intervista, perché ho seguito il vostro MySpace, ho ascoltato un po' di musica e mi sono divertito davvero parecchio. Grazie mille, complimenti a voi. Grazie. Allora, senti, parliamo un po' del primo album, Messaggi subliminali ad una generazione senza idee. Questo è il vostro primo album interamente autoprodotto, alla quale hanno partecipato anche altri artisti trentini. Parlando di esperienze, sappiamo che avete condiviso il palco con diversi artisti come James Taylor Carter, The Dead Rocks, The Home, Paolo Benvenu e il Teatro degli Orrori. Cominciamo con parlare un po' del progetto Sabung vero e proprio, come nasce, come si sviluppa. Beh, il progetto Sabung nasce dalle ceneri di un altro progetto dove Federico e Lorenzo suonavano precedentemente. Io mi sono inserito e nel 2007 abbiamo cominciato a produrre musica completamente nostra, ispirandoci soprattutto alla musica grand o comunque al movimento di Seattle, sì, dei primi anni 90. Nel 2008 abbiamo registrato un primo demo che però non siamo riusciti molto a distribuire, perché siamo immediatamente cambiati su uno stile diverso. Ci siamo spostati più su un genere, diciamo, più punk, più la direzione è quella del Teatro degli Orrori, comunque uh-huh, di gruppi similari. Certo. Senti, qual è secondo voi la canzone che più rispecchia il vostro modo di essere? Ma di questo CD, Intifada, che nel CD si intitola Spara, però uh-huh. E di cosa parla questo brano? E parla soprattutto della presa di potere da parte del popolo ebraico nella striscia di Gaza, uh-huh. E di come un altro popolo, il popolo palestinese, cerca di difendere una terra che ormai è in suo possesso da molti anni. Certo. Con una forma di partigianato che però al mondo viene dipinta come una forma di terrorismo. Certo, siamo d'accordo. Senti, quindi mi pare di capire, insomma, che nella vostra musica, nei vostri testi, si parla di politica, si parla di cos'altro? Di amore? Di amore soprattutto. Uniamo un po' il nostro impegno sociale sulle cose che non ci piacciono, diciamo. Certo. A grandi linee, non approfondiamo tematiche fino in fondo, e poi sono le nostre esperienze con l'amore, più o meno traumatiche, insomma. Certo, immagino. Senti, quali sono le difficoltà che si possono incontrare, insomma, quando una band decide di autoprodursi, di cercare di andare avanti in questa giungla piena di band, di situazioni emergenti, comunque in cerca di realtà più concrete? Beh, sicuramente la possibilità di avere visibilità, perché anche all'interno della musica indipendente c'è, diciamo, un establishment molto, molto forte di gruppi che magari suonano da parecchi anni e i giovani vengono un po' accantonati. E certo, poi distribuirsi da soli è difficilissimo. Allora Simone, anche questa settimana abbiamo da reclamare il brano sondaggio vincitore di questa settimana, e abbiamo fatto anche quest'oggi una bella bella ripassata di tutti quelli che sono stati poi i voti di questa settimana. Ci sono stati un bel po' di accessi. Sì, sì, e soprattutto direi che il brano vincitore, che ancora non vi voglio svelare, ha riscosso una buona percentuale di voti sul totale delle votazioni, insomma. Bene, quindi vincitore, vincitrici di questa puntata di Rock Revolution, di questa settimana di votazioni, sono... Lo posso dire subito, perché ogni volta ho qualche timore reverenziale. Allora ve lo dico subito, sono i Neodea con Panic TV. We'll be right back. che mi devasta ancora il petto e che scivola in me. Lacrime di un sesso. Stando in piedi a farmi colpire, la solitudine è solo un livido, la mia attitudine è solo un brivido, la mia inquietudine è solo un attimo, che mi devasta ancora il petto e che si vola in me. Mancare l'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. belli di tutti i tempi, in sequenza mixata. Rock di tutti i tempi, in sequenza mixata. Thank you. Rock For You, i quattro successi rock più belli di tutti i tempi in sequenza mixata. chitarrate a tavoletta, Guns N' Roses. Questo era il Rock for You di questa settimana, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. Come sapete, questo spazio dedichiamo a tutti voi rockettari, con 4 bei pezzoni di gran successo sparati in sequenza. E adesso ci siamo praticamente trovati con 2 artisti, un artista molto forte, pronto il suo chitarrone in mano, con il consueto appuntamento settimanale con la musica emergente di Rock Revolution. Quindi anche questa sera abbiamo un bell'ospite da presentarvi e un po' di musica da farvi ascoltare. Tra l'altro abbiamo sia dei pezzi registrati in studio che dei pezzi suonati dal vivo per noi. E quindi direi di iniziare con la sigla della presentazione degli ospiti di questa settimana. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. Ebbene sì, direttamente da Ragusa, questa sera con noi in studio William Wilson. Standing ovation, William. Addirittura. Senti. Per così poco. Ancora non ho fatto nulla. Guarda, soltanto la presenza per noi è una cosa molto sì, gradita, perché siamo sempre molto sensibili alle band emergenti, alla musica nuova, alla musica bella, e quindi ci fa sempre piacere avere in studio con noi della bella gente. Un saluto a tutti innanzitutto. Allora, volevo subito ricordarvi che potete, oltre a guardarci su internet dal nostro sito rockrevolution.it, dal sito della nostra emittente crmpradio.it, interagire con noi via sms al 335 56 37 251, oppure con i consueti metodi delle community, insomma Facebook, al nostro indirizzo crmpradio, oppure su il nostro di Rock Revolution, insomma come preferite. Siamo ancora su MSN Messenger e poi non vi rompo più, con diretta @rockrevolution.it, se volete insomma interagire, fare qualche domanda al mio amico ospite di questa sera, William Wilson. Allora William, presentati un pochettino, fai un'apertura di presentazione. William Wilson innanzitutto è un personaggio di Edgar Allan Poe, come molti di voi sicuramente sapranno. Grandissimo autore. Grandissimo autore, una grandissima opera, un racconto molto bello. William è il mio vero nome, chiaramente. Wilson l'ho scelto proprio per questa assonanza con Edgar Allan Poe, e anche perché ha un bel suono. Quindi ti piacciono i racconti dell'orrore? Sì, amo Edgar Allan Poe, ed è abbastanza evidente anche dal nome. Immagino che il tuo preferito sia? Dei racconti. Dei racconti. Ma William Wilson è uno dei miei preferiti, ecco, ma non il mio preferito. Ah no, e quale sarebbe? Sicuramente il Pozzo e il Pendolo? Sicuramente il Pozzo e il Pendolo, il Gatto, il Gatto Nero e il Ritratto Ovale sono quelli più particolari, o anche Ligeia o La caduta della casa degli Usher. Comunque qualsiasi cosa abbia scritto Edgar Allan Poe ha un perché. Un autore molto affascinante. Sì, sicuramente, sicuramente. Senti, parliamo delle tue origini artistiche. Quando hai iniziato insomma a interessarti alla musica? Quando è stata la prima volta che hai preso in braccio una chitarra? Sicuramente non è stata una cosa automatica. Diciamo che fino ai 15-16 anni non avrei mai pensato di avere questa, fra virgolette, carriera, perché sono già da 13 anni. Però all'improvviso è scattata la scintilla grazie ad alcuni amici miei, e anche grazie a ascolti prolungati di musica rock e metal, soprattutto Marilyn Manson, Metallica. E questo ha fatto sì che creassi diciamo un ambiente musicale nella zona di Siracusa, perché io comunque vivo a Siracusa. Sì. E quindi è nato tutto da lì, quasi improvvisamente, senza nessuna premeditazione, diciamo. Senti, a domanda secca, cos'è la musica per William Wilson? Per me, qualsiasi cosa io faccia, la musica c'è sempre. Cioè anche nel momento in cui io lavoro, la musica è sempre con me. Ascolto musica 24 ore su 24, scrivo musica, e per me la musica è tutto. Certo, assolutamente. Senti, ma facciamo una domanda un po' a tutti quanti gli artisti che vengono qui. Quanto è importante per un musicista, secondo te, raggiungere un proprio stile, un'identità, e quanto può influenzare poi la musica che si è ascoltato e che si produce poi nel proprio modo di vivere? È fondamentale avere un proprio stile, questo sicuramente. Il problema è che nel 2010 è difficile avere un proprio stile senza ricalcare comunque il passato. È chiaro questo. Certo. E ovviamente questo si rispecchia anche in quello che fai nella tua vita. Cioè quello che fai musicalmente è anche quello che sei effettivamente. Certo. Altrimenti non avrebbe senso, è una sorta di coerenza che comunque credo sia logica per molti versi. Assolutamente. Allora William, ascoltiamo il tuo primo pezzo registrato, che si intitola Song, e poi magari ci fai un accennino del contenuto, insomma, di questa canzone. Che certamente andiamo subito ad ascoltare in diretta su Rock Revolution questa sera, con noi William Wilson, Live Unplugged, per questa bellissima serata che si avvicina lentamente alla primavera. Siamo tutti contenti. Si intitola Song, William Wilson. Why? I married that pig's daughter. I married that pig's daughter. I met her in the evening, in the moon in the sky. She kissed me in the evening and wet me in her style. Oh dear, oh me, oh my, I married that pig's daughter. I married that pig's daughter. Why? I married that pig's daughter. I married that pig's daughter. Cause I felt I had auto, because I was the one that taught her how to love and how to die. And tomorrow there'll be no sorrow. No, there'll be no sorrow when I take her to the slaughter. When I take her to the slaughter. Why? I married that pig's daughter. I married that. Song William Wilson. Allora William, di cosa parla questa canzone? Questa bellissima canzone che dà proprio la sensazione di spazio, di ampiezza. E questo abbinamento chitarra, cos'era? Un Hammond sottofondo? Un organo, sì. Allora, di cosa parla Song? Innanzitutto è una poesia di Gregory Corso, un poeta beat della Beat Generation degli anni 50-60 americano. Uh-huh. In pratica è una filastrocca. Diciamo che non ha un senso ben preciso, è semplicemente una filastrocca in rima. Non ha un vero e proprio senso finale. Sì. È una filastrocca in sé per sé, che io comunque ho musicato, perché era molto musicale già di per sé, dato che ha molte rime. Certo. Anche, quindi è molto, molto facile anche da musicare. Ecco, la scelta della lingua inglese è chiaramente personalità a questo punto. Sì, chiaramente il suono per me è fondamentale più del significato. Questo non vuol dire che non prediligo anche il senso delle parole, però chiaramente il suono è soprattutto. Certo, assolutamente. Senti, come si è evoluta la tua concezione musicale? Raccontaci un po', ad esempio, del tuo percorso artistico. Dicevo prima, infatti, ho iniziato quasi per caso col rock e col metal soprattutto. Infatti con la mia prima band suonavamo soltanto hard rock. Dico, anche come esperienze magari di manifestazioni, hai partecipato a qualche concorso musicale, sì, qualche contest? Sì. Prima di tutto abbiamo partecipato con la mia prima band a Sanremo Rock nel 2003. Uh-huh. È stata una bellissima esperienza sicuramente. Noi eravamo fuori posto chiaramente là dentro, perché eravamo troppo rock. Uh-huh. Perché a Sanremo, certo, Rock, a contrario di ciò che si pensa, non si fa rock. Sanremo Rock devi suonare pop. Esatto. Sì. Appena attacchi una distorsione, premi il pedalino e già la gente scappa. Cioè i giudici scappano. E poi un'altra importante è stata l'Iteam Tour, sicuramente molto più consono a noi, dove abbiamo aperto il concerto a Neffa, Alex Britti, comunque è stata Litfiba. È stata una situazione molto interessante. E quelli erano i primi anni del 2000, diciamo, 2003-2004. Uh-huh. Per il resto poi tante esperienze comunque nell'ambito metal, soprattutto estremo, cosa che sembra strana adesso. Come mai, come mai questa differenza così dolce, diciamo, da un punto di vista, e così dura sì, dall'altro? È una cosa che nemmeno io a volte riesco a capire, perché io amo alla follia il metal estremo. L'ho sempre suonato e sempre lo suonerò. Tuttora sono attivo con una band di dark opera. Uh-huh. Con cui abbiamo tre dischi all'attivo e comunque suoniamo dal vivo. Ma diciamo che il black metal è molto più vicino alla melodia più di quanto si possa pensare. Sembra strano, ma è così. Tant'è che io in quella band suono il basso e canto comunque delle parti di voci pulite, diciamo, melodiche. Sì, sì, sì, sì, sì. E comunque c'è sempre la melodia di fondo che per me è fondamentale. Certo, sono d'accordo. Allora, adesso andiamo ad ascoltare quindi un pezzo dal vivo di William. Cosa ci fai ascoltare di bello? Sì, io siccome il disco comunque da un po' che è già in giro, volevo suonare un paio di canzoni, una soprattutto che verrà fuori tra poco in una compilation che si chiamerà Repanic. Praticamente è un disco di rifacimenti. Qua abbiamo un artefice, diciamo, è Peppe Forte, lui che è praticamente il leader della Peppy Band. La Peppy Band è una band di Siracusa che ha fatto questo disco e ha deciso di chiamare degli amici e rifare le loro canzoni a modo loro. Bene. Io ho rifatto questa qui che sto per suonare, che si intitola I Like Fasolino. Il titolo è abbastanza divertente. Infatti. La canzone è molto molto seria. Bene, allora l'ascoltiamo con molto piacere. William Wilson, live and plug per Rock Revolution. Buon ascolto. I found useless stuff all around, confusionally placed on a confused ground. I feel sad memories. Was it a dream? I don't know. Feel as if I spit blood. It wasn't a gastric ulcer. Spring is coming, wakes the underground. I love to see kids playing all around. Days when I didn't know what was a kiss, and the game of spin the bottle. You ask me for a kiss, that's not right. I'm not your entertainment tonight. Ooh, ah. Ooh, ah. I feel the blood I spill, and toothpaste don't clean my teeth. Psychophysics sensation, but I didn't know it was really. It was head down like rain shot down, like rain. Mamma mia, William, davvero bellissima questa canzone. Ti devo fare i complimenti e ti volevo fare una domanda che è nata spontanea durante l'ascolto di questo pezzo. Siccome tu mi hai detto, insomma, che hai ascoltato anche Marilyn Manson, volevo chiederti se hai avuto modo di ascoltare l'ultimo lavoro di Marilyn Manson, che tra l'altro include un contenuto bonus con delle tracce degli stessi pezzi suonati in elettrico anche in acustico. Ho ascoltato tutto di Manson, anche le ultime cose. Lo seguo da sempre, continuo a seguirlo, anche se non è più per il mezzo di una volta. E beh, e credo che comunque non sia più tanto affidabile, diciamo, non c'è tanto affidamento, diciamo, in quello che fa, perché ormai diciamo è scaduto un po'. Sì, effettivamente, al passato, effettivamente un pochettino. Secondo me. E probabilmente si sta anche un po' rendendo un po' più commerciale, probabilmente. Sicuramente. Per vendere di più, insomma, questa purtroppo è una cosa che succede. Quando si ha bisogno, insomma, di tirare un po' su di soldi in più. Senti, dove sta andando? Tornando al discorso, insomma, della musica italiana e del cantautorato, dove sta andando in questo momento il cantautorato? E cosa deve puntare, secondo te, per diventare, insomma, un messaggio più forte? Ma la scena è sicuramente molto florida ultimamente, anche perché sono usciti vari cantautori ultimamente, Dente, Beatrice Angiolini, anche gente come Paolo Benvenu, ad esempio, comunque musicisti di talento, le luci della centrale elettrica, il movimento c'è. Uh-huh. Comunque si sta parlando molto del cantautorato in Italia. Purtroppo ora ci sarà Sanremo a breve, purtroppo Sanremo non sfrutta questo talento, questa fucina di talenti comunque che c'è nell'underground, però secondo me continuando così qualcosa ne viene fuori, anche se secondo me non bisogna sottovalutare la lingua inglese, non perché io canto in inglese, perché molti cantano in italiano, io, a me piacerebbe tanto, ma sinceramente non ci riesco a scrivere una canzone in italiano che non sia secondo me banale. Sì. Perché scrivere in italiano è veramente complicato. Certo, veramente. Certo, assolutamente. In inglese è molto più semplice, molto più melodico, molto più, certo, musicale la lingua. Certo. Senti, a Rock Revolution abbiamo ospitato tantissimi gruppi affiatati e con tanta voglia di fare. Non senti la mancanza di una band che ti segue, insomma, anche in questo progetto? Ma diciamo che dopo 10-12 anni in cui ho militato in tante band, anche adesso che milito nei Dark Opera, comunque diciamo che non la sento sta mancanza, perché appunto per questo, perché comunque c'è sempre la band dietro. Uh-huh. Però suonando da solo comunque ho più soddisfazioni, anche se non sono solo sempre, diciamo, perché capita spesso che comunque il qui presente Giuseppe Forte mi accompagna alla chitarra, o altri amici miei comunque con cui condividiamo appunto la musica, però diciamo che non mi manca del tutto, preferisco suonare da solo, mi piace di più. Mm-hmm. Certo, senti, ma Siracusa invece, tornando al discorso, insomma, degli spazi per i musicisti, come è messa da questo punto di vista? Cioè ci sono delle possibilità effettivamente di far musica, di farsi ascoltare, di farsi guardare? Ci sono diversi locali dove sicuramente si può suonare, dove quest'estate comunque io mi sono mosso bene e ho suonato, ma oltre quelli però non puoi andare, cioè fai le tue 4-5 serate e finisci uh-huh. tutto lì. Comunque non c'è un seguito, anche se durante un concerto ci sono 10-20 persone, non è mai un seguito da concerto, diciamo. Sì, vengono, certo, gli amici, certo, finisce tutto lì. Cioè, non c'è forse la cultura, insomma, non della c'è la cultura inedita. Assolutamente, non c'è soprattutto la cultura dell'andare a vedere, appunto, come dicevi tu, della musica inedita, di andare a vedere quell'artista che esce col suo disco. Perché comunque fa delle canzoni che nessuno conosce. Certo, assolutamente. È chiaro. Allora William, ascoltiamo adesso il tuo secondo pezzo registrato, che si intitola Red Iron Man. Di cosa parla, velocemente? Sì, questa è ha lo stesso significato dell'altro pezzo. È una filastrocca, ho scelto apposta questi due perché sono i pezzi più radiofonici, i pezzi più melodici anche. Sì, è una filastrocca diretti scritta anche. Diretti, scritta da me e un altro mio amico che adesso sta fuori. Uh-huh. Anche questa non ha un senso vero e proprio, ma è, diciamo, uno scioglilingua. Infatti si capisce tra le righe comunque che è uno scioglilingua. Siamo curiosi, di andare ad ascoltare, quindi adesso ascoltiamo quindi William Wilson con questa bellissima canzone, titolo Red Iron Man, per Rock Revolution. Buon ascolto. Red Iron Man from Mars, stuck in a battle man. What can I do to be? I live in space night. Some people later I don't. Indifference is in me. She's like cancer, it's you alive. Like Bachman ate your brain. Beauty's like disease. I keep away and you will never be sick. We are, we are, we are, we are. Gladiators from Mars, gladiators from Mars, gladiators from Mars, gladiators from Mars. decay. On my bones, but I'm indifferent, 'cause I'm made of iron. You can kill me just polishing my gun. Keep away your magnetic hunt. Never mind, whatever. We'll sacrifice our lives for our planet in the name of magnetic art. Gladiators from Mars, gladiators from Mars, gladiators from Mars, gladiators from Mars, red iron man. Put down it, magnet our enemy. We'll never decay. Gladiators from Mars, gladiators from Mars, gladiators from Mars, gladiators from Mars, gladiators from. Davvero bella questa canzone. Allora William, come si sente in radio la tua canzone? Cioè, come la senti? Volendo la sento bene. Ah, scusami, mettiamo ad esempio che tu ti trovi in macchina, no? Senti sta canzone e dici, toh, guarda che bella però. Eh sì, comunque è un'emozione perché è un figlio. Eh beh, certo. È come un figlio, sì. E sarà ancora più bello quando poi la canteranno assieme a te i fan. Ma magari, magari, sarà più bello. Te lo auguro. Allora, continuiamo a parlare insomma di questo progetto, di questo tuo progetto. Raccontaci insomma come solitamente avviene la composizione dei brani, quali ispirazioni, quali momenti, la giornata, se ce n'è uno in particolare che ti ispira particolarmente. Ma soprattutto per questo disco era quasi già tutto pronto. Ci avevo già lavorato da un bel po' di tempo. Però è successo che per caso ci siamo ritrovati io, appunto lui che è sempre presente, Peppe, anche se non lo vedete qui, cioè è nascosto. Facciamo fare un salto in mezzo a noi. Sì, è qui, è nascosto. Lui è un altro mio amico che non è qui. Ci siamo ritrovati in questo studio e praticamente molto di quello che io già avevo creato è stato totalmente stravolto in studio, perché comunque la situazione che si è creata era particolare. E quindi diciamo in quel caso è uscito fuori qualcosa che nemmeno noi ci aspettavamo. Quindi la creazione è stata molto molto istintiva. Adesso per quanto riguarda la musica nuova che sto scrivendo, sto facendo un lavoro al contrario, sto scrivendo prima le liriche, cioè quindi sì. mi sto basando molto sulle parole. Appena finirò di scrivere quello che sto per scrivere, perché ho in mente delle cose, finisco e poi incomincio a scrivere la musica, che già comunque c'è qualcosa. Però diciamo in linea di massima è così. Che è strano, è sicuramente il contrario, insomma, poi dalla melodia. Di solito sì, io ho fatto sempre così, però voglio cambiare atteggiamento proprio per vedere cosa ne esce fuori. Interessante, interessante. Senti, che importanza dai appunto alla tecnica nella musica, visto che insomma stiamo parlando proprio di questo, ci vuole molta tecnica, oppure insomma secondo te anche senza molta tecnica si possono ottenere dei risultati? La tecnica sicuramente è importante, bisogna conoscere la musica. Però io sono uno di quegli esempi che comunque non c'è bisogno di conoscere la musica, dato che io non ho mai studiato né canto né nulla, cioè non so niente di musica tecnica, è tutto istinto. Chiaramente la creatività e l'istinto devono essere accompagnati dalla conoscenza, però non è sempre così. Sì, spesso certo. L'istinto supera anche la tecnica e la fantasia, quindi certo, puoi andare anche oltre certe cose senza aver mai studiato. Sono tante canzoni con tre accordi che sono diventati grandissimi. Esatto, i Beatles sono l'esempio di tutto questo. Certo, che erano bravi tecnicamente, ma facevano canzoni di tre minuti con tre accordi. Infatti. Quindi, beh, lì forse probabilmente anche un contesto culturale di un certo parlando momento degli anni 60, che è un'altra cosa. C'è proprio stato un momento culturale, sociale. È stato il momento giusto, la musica giusta, il momento giusto, il momento giusto. Le persone giuste soprattutto. Infatti. Allora, sappiamo che hai un particolare progetto in mente, quello di probabilmente insomma riuscire a raggiungere la tua totale aspirazione in quello che fai, quello che ti piace, la musica. Come pensi di arrivarci? C'è un sogno nel tuo cassetto? Ma come dicevo prima, all'inizio non è mai stato uno dei miei sogni quello di fare il musicista, anche perché non mi sento un musicista proprio per le cose che ho detto prima. Però adesso che le cose si stanno mettendo meglio, diciamo che l'acquolina in bocca incomincia a venire, cioè l'appetito viene mangiando, no? Certo. Adesso stanno uscendo varie recensioni, comunque anche cose positive, cioè stanno parlando comunque di me, del mio certo. disco, e questa cosa non può che farmi piacere. E sicuramente diventare qualcuno ancora adesso non è che mi interessi più di tanto. Mm-hmm. La cosa che mi importa di più è poter fare musica in totale libertà. Certo, è cioè, importante. Potermi esprimere. È poi importante. Tutto il resto è qualcosa in più. Certo. Senti, dove possiamo ascoltare la tua musica? Dove possiamo acquistarla o ascoltarla? Il disco anche su iTunes lo trovate, quindi se volete acquistarlo sicuramente in qualità, in alta qualità, su mm-hmm. iTunes. Ok. Oppure su Bandcamp in MP3 lo trovate gratuitamente. Sì. O su, anche sul mio vogliamo MySpace. Vogliamo anche, ecco, ricordare il tuo MySpace. Sì, www.myspace.com/WilliamWilson81. Perfetto. Che è il mio anno di nascita, chiaramente. Ebbene, siamo contenti. Ce lo giocheremo questa sera. 81. All'otto. Il numero porta fortuna. Noi invece ti auguriamo tantissima fortuna, un grandissimo in bocca al lupo e tanti complimenti, insomma, per il tuo progetto che riteniamo di gran valore. Grazie, grazie mille a tutti. Va bene, puoi fare qualche saluto, ringraziamento, insomma, ti lasciamo uno spazio. Ma innanzitutto ringraziare quelli che hanno collaborato, tra i quali Giuseppe, che è qui qua. Che qui salutiamo con me. Anche noi, anche se voi non lo è vedete. Qui è nascosto, non si vuole fare vedere. Francesco, che non c'è qui, non lo vedo da un bel po'. Sicuramente anche la Seahorse Recordings, Valeria, Paolo Messere, che sì. comunque mi stanno aiutando tanto e mi stanno promuovendo in giro per l'Italia. Li salutiamo e li ringraziamo. Grazie molto anche noi a loro, per la collaborazione. E grazie a voi soprattutto per avermi ospitato. Ricambiamo. Va bene, William, tanti in bocca al lupo allora per tutti i tuoi progetti. Crepi il povero lupo. Speriamo di sentirci prossimamente con delle belle novità. Va Siamo bene? Qui, sì. Grazie Buona mille. Buona continuazione. Grazie, caro. Rock Revolution continua a questo punto, la musica fino a mezzanotte, rock and roll ogni venerdì sera, ormai lo sapete, l'appuntamento in diretta con la musica emergente, ma non solo, la musica anche quella di successo, i grandi pezzi che ascoltiamo sempre e che ci piace ascoltare continuamente. Adesso sono loro, sì, parlavamo di Beatles, cadono a pennello, loro amano definirsi un po' Beatles in effetti, eh. Furono gli Oasis con Falling Down su CRMP Radio, in diretta, buon ascolto. interagisci con Rock Revolution. SMS 335-5637-251. MSN Messenger. Diretta @ rockrevolution.it. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Song and baby, but I'm showing you that door. Rock, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith, baby. I know you're asking me to stay. Stay, please, don't get away, 'cause you're giving me the blues. Baby, you remind me of the words you say. Showing you that door, rock, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Get the fuck up. Grande Rock è su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Diamoci sotto come dei dannati. We'll be right back. Limp Bizkit e Metallica, due brani in sequenza. Che tosti, eh? Bella scossa adrenalina. Questa è Metallica qualche anno fa, eh? Adesso sono molto più speed. Vabbè, facciamo una piccola pausa di qualche minuto, proprio due minuti, non più di questo. Poi rientriamo con un grandissimo successo dei Kiss dal titolo I Wanna Rock and Roll All Night e ci aggreghiamo con molta felicità. Pubblicità. Ogni venerdì alle 21 su CRM Happy Radio Rock Revolution, l'appuntamento rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock Revolution è anche su internet all'indirizzo www.rockrevolution.it. Che bella sta canzone, Kiss, I Wanna Rock and Roll All Night. Ah, grazie, grazie cari, grazie. Allora Simone, parliamo dei dell'Handicam Jamming Festival, questo festival che ogni anno si manifesta, diciamo così, nel nord Italia. Anche quest'anno, insomma, grandi nomi, una headliner di tutto rispetto. Sì, è di poche ore infatti la notizia che appunto sarà presente anche Vasco Rossi in questa nuova edizione dell'Handicam Jamming Festival, questi tre giorni di musica dal 9 all'11 giugno, come sempre al Parco San Giuliano di Mestre, alle porte di Venezia. E tra l'altro, oltre agli headliner, a questo appunto importantissimo headliner, avremo anche i Coldplay, che il 9 apriranno lo stage, e anche i Negramaro, che invece apriranno le danze, chiamano così, il 10, perché appunto Giuliano Sangiorgi, il cantante, dovrà tenere un piccolo intervento chirurgico, e quindi hanno dovuto posticipare al giorno successivo l'apertura dell'Handicam Jamming Festival. Tra l'altro anche, diciamo, che i biglietti saranno disponibili su Ticket One a partire dal prossimo 16 febbraio. Insomma, chiunque fosse interessato comincia a darsi da fare per i biglietti di questo importantissimo appuntamento annuale. Vi consigliamo anche i biglietti aerei, perché poi più siete vicini alla data, insomma, più è la mazzata per il costo del biglietto. Questa è per esperienza, insomma, ve lo dico così voi sapete se non l'avete già fatto. Allora andiamo a fare un altro bel pezzo, saltiamo dal punk al rock al blues, insomma, come se non fosse successo nulla, e adesso arriva un bellissimo pezzo di uno di quegli artisti, insomma, che tuttora è in gran forma e con una voce incredibile. Ha fatto anche TV ultimamente con gran successo, la famiglia Osbourne, te la ricordi? Sì, era veramente uno spasso seguirli. E infatti stiamo parlando di Ozzy Osbourne, che è ripreso a far musica alla grande. Questo si intitola Road to Nowhere, un album molto interessante che contiene tra l'altro anche delle cover niente male, reinterpretate con la voce un po' satanica, ecco, del grande Ozzy. Lui, fu lui, quello di Crazy Train. Ozzy Osbourne, Road to Nowhere. Che bel pezzo, eh? Gran classe. Allora, siamo questa sera giunti al momento catartico. No, sto scherzando, è comunque un momento importante perché ritrovo con grandissimo piacere un amico e collega, Stefano Scalia. Buonasera, caro Stefano. Ciao Filippo, ciao a tutti, ciao la regia, ragazzi simpaticissimi. Allora, caro Stefano, sei qui perché c'è una bella novità, una novità contenta, insomma, dopo quello che è stato il nostro esperimento radiofonico con Crazy House. Bello. Una bella esperienza, ecco, ci ritroviamo con qui in radio per parlare di un appuntamento che inizierà a breve su CRM. Esatto, dopo, chiamiamolo, anno sabbatico, perché è un anno esatto che io sono lontano dalla radio. Infatti con molto piacere sono ritornato e vedo anche dei cambiamenti notevoli, perché la radio è cambiata veramente tanto ed è veramente molto molto bella. Torneremo a breve con un programma tutto nuovo che andrà in onda in diretta il lunedì sera. Sì. E si chiamerà Speedy Top e sarà praticamente la classifica dei pezzi più ascoltati della settimana, che è poi un appuntamento storico di CRM che viene riproposto in questa nuova veste tutta, insomma, particolare, adatta chiaramente ai nostri giorni. Esatto. Con quelle che sono le canzoni più belle, le più trasmesse in radio in una sequenza veloce. Sì. Con la tua bella voce. Grazie caro. Siamo contenti. Quindi prossimamente tenetevi sempre aggiornati sul sito crmpiradio.it per avere per conoscere la data dell'inizio di questo nuovo appuntamento di CRM, tutti i lunedì sera con Speedy Top, la classifica dei grandi pezzi del momento, con Stefano Scalia e un altro DJ che sarà Antonio Gugliuzza. Tutto spreparato, sì. Impreparato non si dice. Esatto. E vabbè, quindi salutiamo anche lui e speriamo di incontrarci presto con questo nuovo appuntamento molto bello. Ti faccio tanti auguri. Io ti ringrazio e ci sentiremo presto qua in radio allora. Benissimo, grazie. Ciao, grazie, ciao a Stefano, tutti. Ciao. Bene, siamo adesso pronti per andare ad ascoltare un bel pezzo che viene direttamente dall'Irlanda con alcuni artisti che si chiamano, guardate un po', Cranberries. Non so se conoscete, ecco, questo è uno forse dei pezzi più rappresentativi loro, e ascoltiamo con grande piacere. Tra l'altro è abbastanza attuale perché, insomma, parla un po' di rivoluzione, di guerra, e sappiamo attualmente che ad esempio in Egitto la rivoluzione ha portato, insomma, bene, diciamo così, perché il potere è passato ai militari e il presidente e se n'è andato a casa, ecco, diciamo così. Chissà che forse anche dalle nostre parti non ci vorrebbe una bella rivoluzione, eh? Certo, non sta mai a dirlo, però insomma un'opinione si può anche esprimere. Però sono i Cranberries, questi zombie su CRM con Rock Revolution che durerà bene fino a mezzanotte. Questo nuovo anno, insomma, ha portato questa bella novità, facciamo più rock il fine settimana, che non fa mai male. Interagite con noi agli sms al 335 56 37 251, oppure ormai lo sapete bene, rockrevolution.it, il nostro sito, e su Facebook è facile trovarci. It's not me, it's not my family in your head. grande successo dei Cranberries, questo è Zombie. Allora, stavamo leggendo questa bella notizia con Simone che riguarda, bella, insomma, dipende dai punti di vista, la morte di Guitar Hero, che è questo famoso videogioco musicale. Sì, questa serie di videogiochi, appunto, che è stata dichiarata definitivamente morta. A dichiararlo è il publisher di questo notissimo videogioco per console dell'Activision, che appunto ha annunciato la chiusura della divisione videogiochi dedicata ai titoli musicali, che terminerà tutti gli avanzamenti dei titoli di Guitar Hero già in commercio. Alla base di questa interruzione, riporta questa nota del publisher, il crollo del business dei videogiochi musicali. Continua appunto affermando che la casa concentrerà quindi i suoi sforzi sui videogiochi multipiattaforma, ovvero quei tipi di giochi che uniscono, insomma, la dimensione anche online, soprattutto di questi tempi social network, comprese ovviamente nuove piattaforme di gioco come per iPhone, Facebook, insomma, e via dicendo. Quantità infinita, infatti. Tra l'altro, con il business interamente in fase di definizione, è possibile quindi che Guitar Hero ricominci a rivivere su mobile, possiamo definirlo così, o direttamente su Facebook. Sappiamo, conosciamo tutti i giochini di Facebook che ci arrivano in continuazione, le notifiche dagli amici e così via. E appunto Guitar Hero potrebbe diventare uno di questi giochini di Facebook, nel tentativo appunto di voler rilanciare questo gioco su quelle piattaforme che al momento sono sicuramente le più attuali e le più utilizzate. Insomma, saremo un po' a vedere Guitar Hero se riuscirà a reinventarsi online. Infatti staremo a vedere, insomma, ci sono sempre novità dal punto di vista tecnologico e noi siamo sempre molto contenti, che vuol dire si va avanti. Una cosa positiva. Arrivano i Green Day in sequenza con Marilyn Manson, ne parlavamo poc'anzi. Last Night on Earth and Leave Us Care. Buon ascolto, questo è Rock Revolution su CRMP Radio. I text the postcard sent to you. Did it go through? Giving all my love to you. interagisci con Rock Revolution. SMS 335-5637-251. MSN Messenger. Diretta @ rockrevolution.it. Stavamo dicendo in regia, mentre ascoltavamo questo bel pezzo, questi due bei pezzi, di Green Day di Marilyn Manson, che sarebbe giusto l'orario di fare uno spuntino, no? Magari un piatto di spaghetti, che ne pensi Simone? Soprattutto Gianni, trovavamo molto d'accordo su questo concetto. Un bel piatto di spaghetti, pure insomma qualche piattino stimolante da gustare in questa seconda parte della serata. Purtroppo dovremmo fare un programma di cucina per avere qualche cuoco qua a portata di mano. Ci penseremo. Nel frattempo c'è una bella notizia che riguarda i Guns. A quanto pare c'è uno show previsto nel 2012 per uno degli eventi più importanti probabilmente in America, giusto? Sì, diciamo il discorso era partito da un po' più lontano, perché in questi giorni si vociferava un pochettino di una possibile cambio di line-up nei Guns Roses, però Axl Rose è stato molto chiaro al riguardo, perché appunto ha affermato che, contrariamente a quanto ipotizzato da qualcuno, non c'è alcun piano per modificare l'attuale assetto del gruppo, appunto, né per un tour né per qualsiasi altra cosa, e questo appunto lo assicurava lo stesso cantante. Al momento continua, non è in programma la sostituzione di alcun elemento della band, al di là di idee sparse e prive di qualsiasi fondamento, gettate al vento da certi individui. E quando appunto il cantante fa riferimento a questi certi individui, il titolare unico sarebbe, non intendeva altro che Slash, che che la settimana scorsa aprì ad un eventuale reunion della formazione originale Guns Roses, affermando appunto: se ricevessi una chiamata da parte di Axl, sinceramente rimarrei sorpreso. Lo dichiarava il chitarrista: se davvero dovesse succedere, anch'io di certo dovrei fare i conti con i sentimenti provati dalla mia fuoriuscita dal gruppo, ma francamente dubito che succederà. Vabbè, ok, abbiamo capito tutto. Insomma, una storia bella lunga che spesso abbiamo affrontato qui su Rock Revolution insieme agli Oasis, insomma. Infatti, una di quelle storie infinite. Si lasciano, si riprendono, poi si lasciano, poi si riprendono. Non è come i gruppi di una volta, come questo qui. Adesso, insomma, forse anche una logica commerciale ci sta dietro a queste cose qui. Secondo me è così. È un bel classico. Bel classico rock and roll con Chuck Berry, Johnny B. Goode. Rock è la tua passione. Non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution. Il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. You need cool, baby, I'm not fooling. Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. Devo salutare tantissimi amici che ci stanno ascoltando in streaming da davvero diverse parti d'Italia, ecco, da Furcisiculo ad esempio. Salutiamo questo amico che io non so onestamente dove si trova, il suo paese, faccelo sapere, ti prego. Poi tanti amici da Siracusa, da Leghorn, che sarà magari il paese dove fanno i Lego, ho fatto una battutaccia, Paceco in Sicilia e da Padova, quindi salutiamo insomma un po' tutti questi amici che ci stanno seguendo, gli auguriamo una buona trasmissione, un buon rock a tutti quanti. Arrivano adesso gli Incubus con Here in My Room. Con Here in My Room volevo salutare e ringraziare la nostra redazione virtuale che ci ha fatto sapere che Furcisiculo è in provincia di Messina, grazie tante. E salutiamo poi anche gli amici, l'amica Lori da Grosseto, ci sta seguendo, ci fa molto piacere. Che tempo fa Grosseto? Faccelo sapere, qua un freddo boia veramente, ci portano un po' d'estate, di Kid Rock, un po' di California, un po' di spiagge, un po' di Baywatch. Bella cover questa, si intitola All Summer Long. Avete indovinato di chi era la canzone originale? It was 1989, my thoughts were short, my hair was long, caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Shined upon her head, and we would try. trying different things. And we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Altro che temperature fredde, eh? Abbiamo avuto un messaggio a Grosseto: durante il giorno 16 gradi, la notte 0 gradi. Ecco, ci si sveglia con il ghiaccio praticamente fuori, un bello sbalzo termico, eh? Allora non ce la passiamo poi tanto male qua in Sicilia, effettivamente. Allora, stiamo leggendo con Simone una bella notizia che riguarda Vasco Rossi e un suo nuovo singolo, a quanto pare già in rete. Sì, appunto, questo nuovo singolo già da qualche ora sta girando sul sito ufficiale di Vasco Rossi, che è appunto vascorossi.net, e anche in streaming sui vari siti dedicati come YouTube, su tutti. E appunto sta girando questo nuovo singolo intitolato È Già. Questo clip, insomma, dando un primo sguardo, è completamente dedicato si dedica completamente all'artista, con un primo piano assoluto, artista che si fa inquadrare con un atteggiamento un po' scanzonato, un look ostentatamente normale e anti-rockstar, e appunto questo primo piano totale per tutta la durata del videoclip, con uno sfondo di acqua marina, insomma un po' particolare. Bello. Un po' egocentrico anche, ecco, andatela a cercare, insomma, Vasco Rossi È Già, e vi sparate sto video, sarà da guardare, insomma, secondo me è un po' fuori dalla norma, interessante. Va bene, allora adesso facciamo ancora Rock and Roll. Abbiamo ormai una dozzina di minuti da trascorrere su CRM con Rock Revolution anche questa sera. 335 56 37 251. Salutateci con degli SMS, ci fa sempre un gran piacere. Siamo online anche con Facebook e con MSN Messenger all'indirizzo diretta @rockrevolution.it. Segnatelo sul vostro block notes. Adesso un pezzo di qualche annetto fa. Thin Lizzy, si intitola The Boys Are Back in the Town. glad I'd been away. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, boys are back in town. I said, the boys are back in town, the boys are back in town. The boys are back in town, the boys are back in town, the boys are back in town, boys are back in town. You know that chick that used to dance a lot? Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys. Ultimi 20 minuti qua in studio non si è fatto altro che parlare di mangiare ed è venuto anche fuori un film, insomma, abbastanza carino, che tra l'altro hanno anche trasmesso recentemente in televisione, un film con Bud Spencer e Terence Hill, altrimenti ci arrabbiamo. C'è quella scena dove loro si siedono al bancone del bar per la sfida fatta chi mangia più birra, no, chi mangia più Wurstel e chi beve più birra. E c'è sta scena, insomma, ci ha lasciati con l'acquolina in bocca, perché insomma questa è la notte, viene anche un po' di fame. Ed è una scena particolare. Arrivano i Marlene Kunz, bellissimo duetto con Skin, si intitola la canzone che scrivo per te, e piano piano ci avviciniamo at the end, alla fine di questa nuova puntata di Rock Revolution. Appassionati, indirizzati a me, e per cinque. speciale di me, che sa cantare ma più stemmi da lustrare di me. Questo è il tuo svago. Per quel che mi riguarda sei un continente oblio. Per quel che ho visto in fondo mi è piaciuto. Questo è Che bella questa canzone, la canzone che scrivo per te, Marlene Kunz. E anche quest'oggi, caro Simone, siamo arrivati a conclusione. Ce l'abbiamo fatta anche questo ebbene venerdì. Ebbene sì, insomma, che bella musica, musica inedita su Rock Revolution. Come fanno le band per partecipare a Rock Revolution? È semplice, sul nostro sito rockrevolution.it, sezione promozione, lì trovate tutti i modi per potervi promuovere con noi attraverso l'intervista radiofonica, mandare un brano che noi inseriremo nella nostra playlist e tanti altri modi che vi invito ad andare a scoprire sul nostro sito rockrevolution.it. Benissimo, grazie Simone, alla prossima settimana. Alla prossima, ciao a tutti. Saluta la nostra redazione, la nostra regia, tutti gli amici che ci hanno seguito anche questa sera, sempre tanti, numerosi, da diverse parti d'Italia e del mondo. Good night, friends. Alla prossima settimana, un grosso ciao. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Happy Radio.